Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Le api sono tornate in campo due giorni fa, ma questa volta ad avere paura sono state loro. Cancelliamo i nostri guai, frenesia che va in città. Beh, avete capito che non parliamo degli insetti, ma dei calciatori della Juve Stabia, squadra campana neopromossa in Serie B, che sabato ha giocato la quarta giornata contro il Brescia. Le api, così sono soprannominati i calciatori, per via del laborioso animaletto che fa bella mossa di sé sullo stemma. Eppure c'è chi non apprezza il lavoro della squadra di calcio. Non parlo dei tifosi, allora di chi? La camorra, va da sé, che a Castellammare di Stabia controlla anche l'aria che si respira. Così la pensa la Procura della Repubblica di Napoli, che dalla scorsa settimana sta interrogando alcuni ex calciatori, tra quelli che il 29 marzo 2009 rimasero in mutande al rientro da una trasferta a Pistoia. L'episodio viene a galla ora perché i magistrati sospettano che quella gogna, i calciatori furono costretti a denudarsi dopo essere stati inseguiti appena scesi dal pullman, in realtà fu ordita dalla camorra, forse dal clan d'Alessandro. Perché? Al momento solo ipotesi, anche se quel che appare certo è che questo nuovo filone della procura confluisce in quello già aperto sul calcio scommesse, nelle quali i clan campani sono padroni. Non solo in Italia. Il clan d'Alessandro, ad esempio, sarebbe fortissimo nelle scommesse legate al calcio brasiliano, a quello messicano, in Spagna e in Germania. Puntate legali, ma soprattutto sospettano i PM illegali e comunque legate a doppio filo al totonero e al riciclaggio del denaro sporco. Per la mafia, insomma, la schedina è sempre vincente. Per gli approfondimenti rimando al mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore, mentre la mail per le vostre segnalazioni è sottotiro@radio24.it. Grazie regia a Roberto Scaltritti e in redazione a Luca Cremonese. Buona giornata e a domani. Edizione. Sono le 6:19 minuti esatte, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, non solo italiani. Iniziamo dall'apertura del Corriere della Sera e Obama: non abbiamo più paura, ground zero, applausi per Bush, reagimmo con giustizia. A centropagina le parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che dice la manovra del governo ha salvato l'Italia, e poi il tema del viaggio in Europa. Vado per il bene del paese, la crisi conta più dei magistrati. E poi di taglio basso una storia, quella che riguarda Cristina Berardi, ex sequestrata, esprime rispetto per il bandito morto, necrologio per il suo rapitore. L'editoriale di prima pagina firma di Maurizio Ferrera, le verità nascoste dello Stato sociale. La Stampa, grande foto dedicata alle commemorazioni per l'11 settembre, è il giorno della rinascita, questo il titolo tra virgolette, dall'incubo la riscossa americana, ma la folla applaude più Bush di Obama. Dal lato italiano titolo ancora una volta su Berlusconi e poi due temi, l'intervista ad Antonio Martino del centrodestra, naturalmente del PDL, la manovra è invotabile, dice, e poi si parla di Londra e Berlino che stanno ragionando sull'innalzamento dell'età pensionabile fino a 67-69 anni, si parla anche della nuova manovra in Grecia, anche di questo parleremo più avanti, così come di quello che trovate sulla Stampa di taglio basso come titolo, il ritorno in classe per 8 milioni di studenti. America, il dolore e la speranza è il titolo di apertura di Repubblica. Per il centro della pagina sceglie la politica, ma sceglie le parole di Fini. Fini liquida Berlusconi, il suo regno è finito. E poi un reportage in Grecia, l'ultima chance per evitare la crisi dell'euro. Il Messaggero, l'apertura è America, silenzio e lacrime, a Ground Zero applausi per Bush e freddezza per Obama, come vedete lo sottolineano un po' tutti. E ovviamente, essendo il quotidiano romano, mette come punto importante dal lato del campionato la crisi della Roma. Grande foto a centropagina di un De Rossi con l'aria delusa. Roma a terra, Luis Enrique sotto accusa. Per la politica sceglie il Messaggero le parole di Angelino Alfano, che striglia il PDL: chi non ci crede resti fuori dal campo. E poi le due vicende di cronaca, quella di una donna che nel fine settimana, forse l'avrete sentita, è morta soffocata nel corso di una sorta di gioco erotico, il racconto dell'ingegnere, quel gioco fatto tante volte. Il Sole 24 Ore di oggi, il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, quindi un settimanale, in comune un fisco parallelo, questo è il titolo di apertura, ai sindaci promesso il 100% delle maggiori entrate, ma finora non hanno ricevuto nulla. Commento a firma di Massimo Bordignoni: il federalismo è un altro. Altra cosa, comunque, all'interno del Sole 24 Ore un ampio speciale dedicato a manovra e mercati. E poi la mappa del contributo di solidarietà da Lombardia e Lazio, metà del prelievo sui super ricchi. Dato che lunedì vi diamo anche l'apertura della Gazzetta, il titolo è Juve che bella e Gasp che botta. Il riferimento naturalmente è al neo allenatore dell'Inter Gasperini. Quindi alla sconfitta dell'Inter, a centropagina, grande foto di Pirlo, il meglio della domenica, la lezione di Pirlo. Dai quotidiani internazionali vi segnaliamo che il Times parla delle prospettive di riconciliazione con i talebani, degli Stati Uniti con i talebani e il coinvolgimento del nuovo Afghanistan. E poi il ritorno su una vicenda della quale si è parlato nelle settimane scorse e che insomma è ritornata, ed è la vicenda delle auto bruciate a Berlino. C'è una sorta di piromane delle auto, è stato dato fuoco ad altre 8 auto nelle scorse ore. Il Guardian segnala che secondo il Centro per gli Studi Fiscali britannico, un istituto considerato il migliore in tema di analisi di politiche pubbliche, il piano di austerity voluto dal cancelliere dello scacchiere Osborne causerà un calo del 10% negli standard di vita delle famiglie. Quindi, come vedete, si dibatte anche in Inghilterra, e noi invece andiamo ai giornali americani. E iniziamo dal New York Times. Because I'll tell you one wonderful thing about him. I was never any different once I was in the White House than I was before. L'audio che sentite arriva dal New York Times, che ha iniziato a pubblicare appunto gli audio di una serie di interviste realizzate 47 anni fa. La voce è di Jacqueline Kennedy, un vero e proprio patrimonio storico di 8 ore e mezza di registrazioni del 64 realizzate da Arthur Schlesinger. Ora, il Wall Street Journal e il Financial Times, oltre alle celebrazioni per l'11 settembre, tengono in primo piano la Grecia e gli ultimi tentativi di Atene per evitare il default, rafforzando i piani di austerity. Chiudiamo infine con un quotidiano giapponese, Asahi Shimbun, uno dei maggiori, rivela che l'11 marzo scorso un osservatorio calcolò accuratamente la magnitudo del terremoto che colpì il Giappone, ma questi numeri non furono usati per far partire l'allerta tsunami. E ci occupiamo di rugby. Flavia Carletti di Radio Cori, il Sole 24 Ore, in Nuova Zelanda al seguito della nazionale italiana. Buongiorno. Buongiorno a voi. E buon pomeriggio per te. In realtà, allora Flavia, dove ti trovi? Allora, noi ci ritroviamo adesso a Nelson, che è una piccola località dell'isola a nord dell'isola sud della Nuova Zelanda, che ha adottato in qualche modo l'Italia, perché la nazionale italiana è stata qui in ritiro prima di giocare la partita d'esordio di ieri, e poi starà qui fino alla fine del mese, più o meno in ritiro, e diciamo il fatto che sia qui è dovuto alla volontà di Aldo Miccio, che è il sindaco di Nelson, di chiarissime origini italiane, che ha voluto fortemente avere la nazionale italiana qui, perché a Nelson c'è la seconda comunità italiana più grande della Nuova Zelanda, che non ha sicuramente numeri eccezionali in quanto la città ha solo circa 45.000 abitanti, però comunque sono molto legati alle loro origini, hanno imbandierato la città con tricolori ovunque, e quindi sono molto contenti di accogliere di aver accolto i nostri ragazzi. Flavia, abbiamo pochissimo tempo per il lato sportivo, del quale tra l'altro abbiamo già parlato poco fa con Carlo Genta, e però ci è sembrato di capire che sconfitta scontata con l'Australia, però il segnale che è arrivato è abbastanza positivo, soprattutto dal primo tempo. Beh, sicuramente il primo tempo si era chiuso sul 6-6 e, come ha detto anche l'allenatore dell'Italia Nick Mallet, la soddisfazione è che l'Italia ha giocato alla pari con una delle squadre più forti del mondo, una di quelle che potrebbe aspirare a vincere la Coppa. Adesso i prossimi appuntamenti sono con la Russia e con gli Stati Uniti qui a Nelson. Adesso gli azzurri hanno circa una settimana per riprendersi e per prepararsi nel modo giusto. Diciamo che sono due formazioni sicuramente meno forti sulla carta dell'Italia, però comunque, come hanno detto gli azzurri, non bisogna sottovalutare queste squadre che, di fronte a una platea così grande che per loro è nuova, non vogliono sfigurare, quindi sicuramente daranno del filo da torcere agli azzurri. Naturalmente, staremo a vedere e ci sentiremo con te naturalmente anche nei prossimi giorni. Grazie Flavia Carletti di Radio Coro Il Sole 24 Ore, buona giornata e buon pomeriggio in realtà. Grazie, a voi buona giornata. Le 6:27 minuti, 18 secondi, una breve pausa, ci ritroviamo per il GR e per il meteo tra un attimo. Prima edizione. 6:36 minuti e 7 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, il momento dell'appuntamento con Italia in controluce. Oggi torniamo a parlare di mafia. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchesi all'interno di questa fascia in diretta Italia in controluce, la pillola. Entro la fine di settembre il Comune di Milano vara la commissione antimafia e in questi giorni, in queste ore, nel capoluogo lombardo si alternano dibattiti, interventi della società civile, delle associazioni che si battono sui temi della legalità per suggerire quali devono essere gli strumenti per prevenire, per sconfiggere l'operato delle cosche. A Milano abbiamo sentito Giulio Cavalli, attore, consigliere regionale da tempo minacciato dalla mafia e sotto scorta. Una frase che dice spesso anche Spataro e che mi trovo molto d'accordo, che dice: noi dagli atti giudiziari sappiamo quello che è stato fatto nel 2010, nel 2011, perché probabilmente mentre stiamo analizzando quelli loro stanno facendo già altro. Io credo oggi è caduto un ulteriore tabù, cioè dopo quello dell''ndrangheta che faceva l'imprenditrice, che ormai è abbastanza chiaro, anche i lavori insospettabili, dopo quello dell''ndrangheta che continuava a sopravvivere e vincere in alcuni campi grazie all'amicizia della politica, oggi con soprattutto le ultime operazioni che riguardano la cosiddetta movida milanese, che riguardano grandi aziende come la TNT di distribuzione, direi che è ancora più evidente quanto sia la forza pervasiva in qualsiasi settore. Quali sono le preoccupazioni per quanto riguarda le presunte infiltrazioni di cosche nei lavori dell'Expo? Io ho la sensazione che ancora una volta il dibattito politico si dilunghi, mentre probabilmente i nemici che cerchiamo di contrastare sono invece già molto più avanti di noi nella programmazione del proprio lavoro. Lì basterebbero poche cose, il problema è un problema di competenze, cioè la questione dei subappalti pubblici, ci vorrebbe che la regione ad esempio, ma anche i comuni con delle ordinanze, chiedesse una volta per tutte che ad esempio la movimentazione terra sia tra i lavori che rientra obbligatorio comunicare alla ditta subappaltante. Io penso che siamo messi abbastanza bene dal punto di vista della curiosità, nel senso che la gente adesso comincia a sapere e comincia a controllare e a voler sapere. L'aspetto legislativo invece secondo me è ancora abbastanza migliorabile. Ci sono state nel corso del tempo dichiarazioni di vari esponenti politici tipo la mafia a Milano non esiste, questa negazione di una evidenza che si rileva almeno nel capoluogo lombardo quantomeno dal 1957. Ma sai, l'atteggiamento di facciata, almeno si è capito che anche a Milano non è più tollerato che un importante personaggio pubblico della pubblica amministrazione possa permettersi una cosa del genere. Il problema vero è che siamo ancora un paese che continua ad esempio a incensarsi sugli arresti dei latitanti e è un paese che non si interroga sulla lentezza e sull'inefficienza con cui ad esempio a Milano non si riescono a riassegnare i beni confiscati, non ci si interroga sul fatto che a Milano è stata ammazzata una testimone di giustizia, se ci pensi come nei peggiori percorsi immaginari del profondo sud. Io penso che l'atteggiamento sia sicuramente cambiato. Il fatto che si parli dell'istituzione che dovrebbe essere ormai a breve da parte del Comune di Milano della Commissione Antimafia, anche quello diventa un segnale importante. Era Italia contro Luce, prima edizione, La Pillola. Torniamo oggi, 13.30, Radio 24. E ora parliamo di scuola. Si torna a scuola in 13 regioni, un ritorno fra vecchi problemi, qualche novità e proteste. Maria Piera Ceci, buongiorno. Sì Simone, oggi finisce la pacchia dunque per gli studenti di 13 regioni, poi a seguire tutte le altre fino a lunedì prossimo, quando torneranno sui banchi gli studenti di Abruzzo, Basilicata ed Emilia Romagna. Per loro dunque alza taccia, e tu ne sai qualcosa da questo punto di vista. Un ritorno fra vecchi problemi, dicevi, ed è proprio così. Elencarli tutti sarebbe impossibile, ma ci proviamo. A cominciare dal fatto che anche quest'anno molti bambini e ragazzi non avranno oggi ancora il loro insegnante, e altri ce l'avranno, ma non si tratta di un insegnante di ruolo, quindi lo cambieranno il prossimo anno con molta probabilità. Questo per due ragioni. Una, perché nonostante le 30.000 assunzioni fra i docenti, 36.000 invece fra amministrativi, tecnici ed ausiliari, bidelli insomma, circa 27.000 posti restano senza un docente di ruolo. Quindi si procederà, tanto per cambiare, con un supplente. L'altra ragione è il pasticciaccio che si è creato con le assunzioni dalle doppie graduatorie. La questione è un po' complicata. Comunque, per capirci, incombono 3.000 ricorsi di quegli insegnanti che erano stati inseriti in coda nelle graduatorie e che con ogni probabilità vinceranno il ricorso. Insomma, avranno diritto al loro posto, e il Ministero nel frattempo ha chiesto di accantonarli quei posti, insomma di temporeggiare. Un vero caos. Altro problema, quello ormai ben noto dei tagli, quegli 8 miliardi di tagli in tre anni decisi con la legge 133 del 2008. Quest'anno l'ultima pesantissima tranche, quasi 20.000 tagli fra gli insegnanti ma anche fra i presidi, molti chiamati a dirigere più scuole con tutti i problemi che ne conseguono. Tagli che saranno al centro di proteste e flash mob oggi in tutta Italia, come ci ha raccontato Marco Zabai, coordinatore degli studenti medi del Veneto. Oggi saremo davanti a tutte le scuole del Veneto, ma anche nel resto d'Italia, con la nostra associazione, con striscioni, volantini, e per ribadire appunto che ora parliamo noi e che questa Italia deve vederci tornare protagonisti del dibattito. Altra carrellata di problemi antichi, le cosiddette classi pollaio. Pensate che a Roma, in una classe di un liceo romano, si è rischiato di ammassare 42 ragazzi, ipotesi poi per fortuna rientrata. Classi dunque più affollate ma anche più multietniche. In 10 anni, secondo la Fondazione Migrantes, gli studenti stranieri sono aumentati del 400%. L'anno scorso si sono superati 700.000 alunni, con circa 2.000 classi che hanno superato quel 30% fissato dalla Gelmini e che tanto ha fatto discutere. E fa discutere anche tutti gli anni il benedetto tetto alla spesa per i libri di testo, tetto che non viene rispettato da una classe su due. Un esempio su tutti, liceo Avogadro di Roma, prima 423 euro per i libri, ben oltre i 315 massimi previsti dal Ministero. Ma non mancano gli esempi virtuosi. Liceo Classico Berce di Milano, tetti rispettati, con tanto di evidenza sul sito della scuola. Rispettare i tetti dunque non è impossibile, come ci ha raccontato il preside del liceo Berce, Innocente Pessina. No, non solo non è impossibile, io credo che sia doveroso. Mi spiace pensare che ci siano ancora dei colleghi o dei consigli, dei collegi docenti che pensino che una legge possa essere semplicemente interpretata come un consiglio. Tutti quanti dovremmo porci davvero la domanda: i testi, quali testi vengono veramente usati tutto l'anno? Ma questo è anche un anno di novità. Parte l'istruzione tecnica superiore, una buona alternativa all'università. Sono già 5.000 le domande. Altra novità di quest'anno riguarderà i più grandi, maturandi. Per loro test invalsi all'esame di Stato, e una volta fatto l'esame, se si avrà almeno 80 su 100, si potrà fare un'ulteriore prova per accedere a borse di studio, prestiti d'onore di 10.000 euro. Questo a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia. Queste dunque alcune delle novità, ma non penseranno di certo a tutto ciò i ragazzi che stamattina rientreranno a scuola. Oggi è il giorno dell'abbraccio con i compagni, degli scherzi e anche delle speranze. Allora sentiamoli alcuni di questi ragazzi, poi Simone ti restituisco il microfono. Le mie speranze sono passare senza debiti, chiaramente, e essere promosso senza che debba studiare poi durante l'estate per poi dare gli esami a fine anno scolastico. Spero che ci diano una preparazione che poi ci aiuti anche durante il triennio ad avere poi delle possibilità per l'università, eccetera. Insomma, bisogna già cominciare a pensarci da adesso. Bene, grazie dunque a Maria Piera Ceci, è il momento della viabilità, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo della crisi dell'eurodebito. Prima edizione. Le 6:47 minuti, gentili ascoltatori, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Ci colleghiamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, buongiorno. Buongiorno. Ci sembra che sia stato un fine settimana piuttosto intenso nel quale alla fin fine l'infittirsi delle voci su una possibile uscita della Grecia dall'euro si sono fatte decisamente più forti e non solo della Grecia. Sì, stiamo attraversando un momento delicatissimo, sempre più delicato direi per la zona euro. Le dimissioni improvvise, inattese di Jürgen Stark la settimana scorsa dal comitato esecutivo della Banca Centrale Europea ha reso ancora più incerto e angosciante il dibattito politico tedesco. Evidentemente il futuro della zona euro passa sia certamente dalla Grecia ma soprattutto dalla Germania. La Germania sta affrontando questo momento con grandi dubbi. Addirittura il ministro dell'economia Philipp Rösler pubblica stamani un articolo su un quotidiano tedesco Die Welt in cui parla esplicitamente della possibilità che la Grecia lasci l'unione monetaria. Ho l'impressione che i tedeschi siano in una fase particolarmente difficile, la loro pazienza nei confronti del governo di Giorgio Papandreou sta evidentemente diminuendo. Detto questo, la Grecia sta facendo ulteriori sforzi per risanare i propri conti pubblici e quindi è un po' una battaglia tra due sensibilità, tra due impegni. Da un lato la Germania, che continua a pensare che questa situazione non sia sostenibile e continua a pensare che l'unione monetaria sia stata allargata troppo velocemente, e dall'altro c'è il tentativo disperato del governo greco di rispettare gli impegni con l'unione monetaria e che sta tentando disperatamente di rimettere ordine nei propri conti pubblici. È una situazione estremamente delicata e francamente non è chiaro a questo punto come terminerà. Come terminerà? Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, che troveremo tra l'altro, ve lo ricordo, questa mattina anche con Oscar Giannino a 9 in punto. E noi siamo quasi in chiusura, un ultimo minuto con Alessandro Milani, il rumore dei giornali l'avete sentito come sempre. Alessandro. Eccoci qua Simone, buongiorno. Ovviamente c'è molto di 11 settembre, come puoi ben immaginare, tutti i giornali aprono su questo e la politica italiana invece si concentra sulle polemiche, su questo viaggio di Berlusconi. Quello per vedere Barroso, Berlusconi è dato infuriato per la ricostruzione di alcuni giornali che dicono scappo dai magistrati e insomma c'è questa polemica politica. In 10 secondi, storie carine che hai trovato? C'è una storia carina, il ministro Galan ieri in un'intervista al Fatto e oggi ripresa dal giornale e dal Corriere fa sapere che lui, non essendo parlamentare, non può usufruire del parrucchiere al Parlamento, ma quando ne ha bisogno chiede in prestito la tessera a una sua amica deputata. Bene, e anche questo fa parte di tutto il per giro. Risparmiare quei 5-6 euro. Ecco, esatto, no? Per risparmiare quei 5-6 euro. Grazie ad Alessandro Mina, che ritroveremo più avanti in 24 mattina. Grazie ad Alessandro Longoni in redazione, Peter Bescapè in regia. Noi ci sentiamo subito dopo il Gazzettino del Risorgimento con il giornale radio.